Epilog. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Io l'ho sempre detto, e mai cercherò di nascondermi dietro un dito. Sono stato un pessimo studente. Mi iscrissi prima alla facoltà di giurisprudenza, perché mi hanno costretto in famiglia a farlo. A quel tempo occorreva dare minimo un esame all'anno, occorreva andare a fare il servizio militare, quindi naturalmente i primi anni non facevo praticamente una mazza. Il primo anno ho detto un esame fondamentale, che era medicina legale. Mi piaceva molto perché bisognava studiare le persone tranciate dai binari e quelli impiccati, è una cosa che era un'anticipazione dei Fox Crime, quindi era un esame divertente. Poi capii che non era materia per me, cambiai e mi iscrissi a lettere e filosofia. Ma anche lì c'erano dei simpatici esamini molto utili a rimandare l'annualità della partenza per il servizio militare. Un esame che mi impegnò molto un anno fu studi francescani. Solo all'Università di Perugia c'era naturalmente studi francescani. Il docente era un frate francescano, veniva lì vestito da frate. Era un librettino di 70-80 pagine sulla vita di San Francesco. Bastava dargli una lettera la mattina prima di andare a dare l'esame e si dava questo esame. Fondamentale, figuriamoci, chi vive in terra umbra non può prescindere dalla conoscenza della vita prima e seconda di Tommaso da Celano, però anche quello mi aiutò. Poi andando avanti, sì, approfondì i miei studi, feci un bel esame di filologia romanza sul Cid Campeador, tutte cose che poi, vedete, mi sono utilissime nella mia vita. Ma questo fa parte di un passato arcaico. Oggi, perlomeno negli ultimi anni, esiste una variegata possibilità di scelta creativa dei propri corsi di studi. Tutto questo preoccupò un po' il precedente governo, adesso non so se l'attuale pure se ne sta occupando, e ci fu una drastica potatura dei rami secchi. Sotto il ministero Gelmini furono cancellati 800 corsi di laurea che venivano giudicati inutili. Ci fu una vasta polemica su questo, però fu deciso che in realtà c'erano troppi corsi di laurea. In molti corsi poi non si iscriveva nessuno, pochissime persone, e quindi si decise di dare una bella tagliata e furono tolti sia corsi di laurea triennali, quei fantastici sottocorsi di laurea. Sottocorsi dico perché è una laurea, sono laureato, sì, poi hai fatto soltanto 3 anni. Ci sono dei temi fantastici che toccheremo, sia corsi di laurea veri e propri in cui non si scriveva più nessuno. Perché? Perché avevano capito che sì, si aveva uno straccio di laurea, però non sapevi cosa farci. Poi, al di là di queste prese di posizione ufficiali e governative, c'è stato l'esempio che ci ha dato oggi la fantastica ispirazione per questa trasmissione. Una cantante sanremese ha squarciato il velo dell'indifferenza sulla possibilità di laurearsi in qualcosa che in realtà non è così immediatamente utile al proprio futuro professionale. Se un giorno tu tornassi da me dicendo che è stato un errore lasciarmi andare lontano, lontano da te, se un giorno tu parlassi di me dicendo che... Nina Zilli, cantante che si è prodotta nell'ultimo festival di Sanremo, al secolo Maria Chiara Fraschetta, molto meno poetico, ma Nina Zilli in quanto artista è stata naturalmente intervistata da Vanity Fair, che è un periodico che si occupa molto di cogliere gli aspetti inediti dei personaggi che attraversano il mondo della cronaca, della visibilità, dell'impegno artistico. E si lascia andare una battuta, noi l'abbiamo cercata disperatamente questa mattina, l'avremmo voluta vedere a questi microfoni, ma si è ritirata in un rigoroso riservo perché non vuole ripetere ciò che le ha causato probabilmente, non so se una querela o perlomeno l'irritazione. Alla domanda della giornalista quali fossero stati i suoi studi, lei ha detto che si era laureata in stronzologia. La stronzologia, per quanto io possa ricordare discipline assimilabili che ho lambito, di cui ho spesso anche recentemente parlato, non la ricordavo. In realtà la signora Fraschetta si era laureata in relazioni pubbliche con specializzazione in consumi e pubblicità, con una fantastica tesi di laurea sulle subculture giovanili presso l'Ateneo Milanese dello IULM. Leggi tutto questo, in realtà per me è una laurea in stronzologia. Il rettore dell'università si è arrabbiato, dice: la querela non si può, è un insulto verso quelli che hanno fatto lo stesso corso di laurea. Ma io, se potessi spezzare una lancia per la signorina Nina Zilli, chiederei al rettore un gesto magnanimo: non si querela la libera espressione di uno studente che dal suo punto di vista, una sua visione totalmente soggettiva, quell'illuminato importante corso di studi, quella fantastica e indispensabile laurea sulle subculture giovanili, che sono temi che a me appassionano, dal suo punto di vista, secondo lei, ai fini della sua formazione, del suo impegno professionale, sono assimilabili a una disciplina che ha la sua dignità, perché ha la sua dignità, che è la stronzologia. E quindi non si può fare a meno di prendere atto del fatto che c'è un numero cospicuo, probabilmente, di persone che sono convinte di aver studiato stronzologia. Questa è la domanda che vorrei fare questa mattina ai nostri ascoltatori. Anche voi avete impegnato gli anni migliori della vostra vita per specializzarvi in stronzologia? Anche voi avete dissipato giustamente il frutto del vostro sudore di genitori per mantenere dei figli a studiare stronzologia? E di una laurea in stronzologia, di una specializzazione in stronzologia, cosa mai potete farne nella vita? 800240024, ma non è detto. C'è qualcuno di voi che ha possibilità di offrire posti di lavoro, occasioni professionali, perché di professione fa lo stronzologo? Se esiste uno stronzologo, oggi daremo modo di impegnare proficuamente il frutto del proprio sudore e della propria fatica a tanti studenti in stronzologia. Sei stufo del solito percorso di studi universitari? Annoiato dai libri di diritto o filosofia? Nauseato dalle lezioni di architettura, medicina o fisica? Spaccarti la testa sugli esercizi di matematica o di ingegneria ti atterrisce? Bene, vuol dire che la pensi come noi. Iscriviti ai nostri corsi di laurea unici e originali. L'Università della Fuffa è la scelta migliore per quelli come te. Sì, se studi da noi, tutte le porte ti si apriranno e anche tu potrai fregiarti di un titolo di laurea. Con noi puoi diventare dottore in Scienze del fiore e del verde, Scienze dell'allevamento, Igiene e benessere del cane e del gatto, Interpretazione di conferenza, Scienze e turismo alpino, Ortofrutticoltura internazionale, Informatica umanistica, Tecnologie cosmetiche e galeniche. Chiama e iscriviti. L'Università della Fuffa ti aspetta. 800240024, questa scheda di lauree dell'Università della Fuffa l'abbiamo presa da internet, dove periodicamente c'è chi si impegna nel classificare i corsi lauree che considera più adatti a una scelta non utile ma futile, non utile ma mirata probabilmente alla soddisfazione di propri desideri, di proprie pulsioni, di proprie curiosità, che sono lecite, anzi è interessante, creativo, auspicabile, fa bene alla mente e al corpo impegnarsi nell'approfondire e studiare le cose che più ci appassionano, ma non è detto che poi questo abbia una effettiva utilità nel mondo poi professionale, anche perché mantenere un figlio agli studi e studiare ha un suo costo, che abbiamo sintetizzato in questa scheda. Quanto costa far studiare un figlio all'università? Mantenere uno studente all'università fuori sede costa a una famiglia italiana non meno di 7.000 euro all'anno, e questa è l'ipotesi più economica. I costi delle tasse annuali dell'università variano dai 700 euro per facoltà umanistica agli 800 euro di una facoltà scientifica, con punte di 1.300 euro. Per comprare i testi del primo anno accademico si devono sborsare mediamente dai 400 agli 800 euro. Se si è studenti fuori sede, bisogna preoccuparsi di vitto alloggio e i costi, secondo Adiconsum, diventano davvero proibitivi. Per avere una stanza in affitto in appartamento in condivisione si spendono circa 500 euro al mese. E anche le mense non sono così economiche. In media bisogna pagare altri 220 euro al mese. Questo senza contare spese impreviste, i vestiti, i mezzi di trasporto e tutto quanto sia necessario per vivere. Le spese decollano quando si decide di iscriversi ai master universitari che hanno un prezzo medio di 6.000 euro, ma si arriva fino a 19.000 euro per un master in ingegneria della durata di 24 mesi. Ne vale veramente la pena? 800240024, oggi cerchiamo di definire quanto abbiamo potuto indulgere alle nostre passioni, ai nostri desideri, alla nostra infima tendenza a fare le cose che ci costino meno fatica e quante lauree abbiamo preso in stronzologia, coniando e prendendo e facendo nostro il neologismo inventato dalla creativa cantante Nina Zilli. Abbiamo Nicola, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, la ringrazio dell'opportunità di dire la mia esperienza. Niente, io non ho preso la laurea in stronzologia, non la considero tale, però il paese in cui lavoro, l'Italia... In cosa sei laureato? In agraria. Beh, agraria, guardi, è tutt'altro che una laurea in stronzologia, è una fantastica laurea, secondo me ci sono ottime facoltà in Italia, laurearsi in agraria è difficile pensare sia una laurea futile, no? No, però... È anche impegnativa, è molto impegnativa come corso di laurea. Indubbiamente, molto affascinante, aggiungo che mi sto specializzando in enologia e ho la fortuna di lavorare in un'azienda medio-piccola del settore, però non vengo, nonostante la mia età, che non è più giovanissima, non mi considero più già circa 8-10 anni di lavoro. Lei è un enologo, Mi sto specializzando in enologia e non viene recepito, diciamo. Guardi, per la poca esperienza che ho, quando ho avuto modo di spostarmi in alcune regioni d'Italia in cui è forte e importante la produzione di vino, mi hanno detto: guardate, la cosa triste è che noi dobbiamo importare persone che sappiano trattare la vite e il vino da paesi limitrofi, perché in Italia non c'è più nessuno che vuole studiare, vuole soprattutto faticare su come si faccia correttamente il vino. Quindi secondo me un enologo non è uno stronzologo, è qualcuno che si occupa di qualcosa di utile. No, ho capito il senso della trasmissione, però volevo dire la mia esperienza, nel senso che ci sono delle lauree che sono chiaramente privilegiate anche per quello che concerne il campo di studi, parliamo dell'agraria, lasciamo da perdere l'enologia, cioè vengono chiaramente privilegiate altre lauree e quindi questa, una laurea in agraria, diventa una laurea di serie B, soprattutto in un paese come l'Italia, dove la fanno da maggiore alcune categorie come avvocati, ingegneri. Beh, certo, se c'è un corso laurea in socioantropologia del tulipano può essere che si faccia presto a laurearsi, ma non ci fa nulla di concreto. No, io so comunque... che la laurea è una laurea faticosissima, è un corso di studi molto impegnativo. Quindi... Certo, però non c'è una risposta da parte dell'azienda. Le dico la mia esperienza, io lavoro in un'azienda agricola e abbiamo consulenti, diciamo, esterni che non vengo minimamente sfruttato per gli studi che ho fatto. Chiaramente mi sto adoperando per migliorare la mia posizione. Ma questo perché ci sono troppi dottori stronzologia che in realtà vendono fuffa e occupano il terreno? Ma questo non lo so, però ci sono troppe persone che credono troppo in figure esterne, secondo me. Non lo so, non viene giustamente valorizzato. Vabbè, lei ha posto un problema che poi è un po' laterale rispetto alla nostra domanda. Andiamo a Matteo. Matteo, buongiorno. Buongiorno. Sono Matteo, chiamo Galodi. Sono laureato in informatica musicale. E la considera diciamo una disciplina della stronzologia oppure... Ma più che altro è della fuffa, diciamo. Informatica musicale. Il nome vero sarebbe scienze e tecnologie della comunicazione musicale. Adesso per fortuna l'hanno cambiata. Ma diciamo in quale facoltà è... La facoltà di informatica alla Statale di Milano, sembra un corso abbastanza serio. Ma anche a me sembrerebbe, scusi, lei è un informatico che tratta file musicali e strumenti per produrre e elaborare musica, mi sembra un corso laurea molto utile, interessante, molto legato anche alle culture giovanili, contemporanee, perché dice che è stronzologia? perché sono laureato da 2 anni e ho mandato in giro curriculum a case discografiche, archivi, tutto ciò che di audio si può immaginare, ma o cercano informatici o cercano musicisti. Ma lei invece, scusi, a casa sua, visto che per produrre nel suo lavoro non è che servano sofisticatissimi software o macchinari. No, adesso basta un computer. Basta ormai. Quello che a casa ognuno di noi. Non ha pensato di cominciare a lavorare, pensare, produrre, immaginare, studiare? Sì, no, sicuramente ho anche prodotto io con i miei amici svariate cose, però in ambito musicale o sei una casa fermata, hai una possibilità di distribuzione o non puoi fare niente. Ma lei a monte anche della sua scelta sapeva che questa laurea non l'avrebbe portato un immediato inserimento, perché era appassionato di musica, era appassionato di informatica, con me ha fatto questa scelta? No, io sono più che altro un musicista, di informatica non ha dato molte basi, ma più che altro una cosa che ho trovato anacronistica è che l'università, anche parlando con i miei amici che fanno altre facoltà, è più portata a spiegarti ciò che è stato fino adesso, cioè per esempio ci fanno due coglioni così col MIDI, con dei programmi davvero con il MIDI che ormai veramente sì mi fa in mente più nessuno. I meravigliosi anni 90, diciamo. I primi anni 90, i file MIDI, sì, va bene, sì. Quindi lei rientra fra quelle facoltà la cui disciplina andrebbe misurata con l'innominabile scala di Bristol, che non sto a entrare nei particolari, e quindi non è una che è la scala che misura la strozzologia, e questo è, i medici lo sanno, e non è un corso di laurea, nemmeno quello in informatica musicale, che pensavo modernissimo, degno di qualcuno che vuole un inserimento immediato nel mondo del lavoro. Professor Paolo Ferri, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo preso un professore vero di un'università vera per aiutarci a districarsi in questo difficoltosissimo e anche insidioso terreno dei corsi laurea inutili. Ricordo che Paolo Ferri è docente di tecnologie didattiche all'Università Milano Bicocca. Quindi Paolo Ferri, noi ci conosciamo, quindi ci diamo del tu in quanto amici. Esiste il problema del laureato in stronzologia che all'inizio sembra tutto bello, facile, creativo, e poi si trova di fronte la muraglia invalicabile del fatto che con quella laurea non ci faccia nulla? Ma no, il problema esiste. In realtà i corsi di laurea in Italia fino all'anno scorso erano 5.460, se si pensa che quando ho fatto l'università io le facoltà laureavano in 30-35 corsi di laurea, si capisce che evidentemente questa è un'anomalia. In realtà il problema dipende un po' dalla mala gestione in qualche maniera che è stata fatta della riforma che ha istituito il triennio e il biennio, perché con questa riforma è stata data l'autonomia alle università di istituire corsi di laurea a prescindere dall'ordinamento dello Stato. E quindi per ragioni spesso clientelari o per ragioni spesso di posizionamento di raccomandati sono stati istituiti una serie di corsi di laurea che sono gemmati in maniera assolutamente imprevista anche dal legislatore e ci hanno portato a questa situazione che è anche unica in Europa. Dopodiché molto spesso sì, il corso di laurea in comunicazione orale, che si capiva naturalmente che erano dati a persone, sì, che non certo per valori accademici, per qualità di tipo accademico. Esattamente, e quindi questa distorta interpretazione dell'autonomia degli Atenei a moltiplicare l'offerta didattica ha generato questa sorta di mostro, che sono i 5.460 corsi di laurea, che oggi sono diventati 4.597, ma evidentemente sono sempre decisamente troppi. È chiaro che poi ciascun Ateneo, e qui bisogna distinguere, nel senso che esistono Atenei privati assolutamente non virtuosi, per intendersi, Atenei privati virtuosi, Atenei pubblici. Poi ci sono anche le università online, c'è tutto. Sì, poi ci sono le telematiche private che sono sostanzialmente dei laureifici, e quindi questa proliferazione in qualche modo ha generato spesso risultati paradossali, cioè è chiaro che il corso di laurea in enogastronomia, diciamo, può essere certamente interessante per la formazione continua o per una persona che vuole approfondire il profumo del tartufo, ma evidentemente. Ma Paolo, diciamo, se in questo momento, per paradosso, tu avessi facoltà di suggerire, anzi di imporre la scelta migliore, bisognerebbe tornare al passato. Le facoltà sono una trentina, quella è la vera università, quella che forma, il resto non chiamiamolo più corso di laurea, chiamiamolo corso di approfondimento culturale, sì, divertimentificio. Esiste in tutta Europa un sistema della formazione continua che è parallelo a quella universitaria, dove esistono anche appunto o scelte e orientamenti più relativi agli interessi, alle volontà di formazione durante il lavoro di persone, ma in generale l'offerta didattica dovrebbe ristretta a quei settori che effettivamente forniscono o possono fornire uno sviluppo professionale, particolarmente oggi dove l'ingresso nel mondo del lavoro è veramente complesso. Per il fatto che tutti si sentano in diritto di esporre un titolo di laurea fa sì che la laurea sia deprezzata, tanto varrebbe dire non ha più un titolo che ha un valore legale la laurea, prendetevela perché fa bene a voi, ma nessuno gliene importa nulla. Evidentemente sì, tra l'altro poi questo dibattito sul valore legale del titolo di laurea è anche un po' viziato, nel senso che in realtà poi il valore legale del titolo di laurea ormai vale solo per gli impieghi pubblici statali e dà punteggio solo per quelli, perché poi un'azienda sceglie indipendentemente dal corso di laurea, ma sceglie sulla persona. E quindi c'è da dire che è in corso un processo di ristrutturazione per cui si sta un po' tornando a una situazione più sensata. Il problema è che, avendo gemmato nel giro di 10 anni più quasi 6.000 corsi di laurea, adesso bisogna farli finire, e quindi prima che ci troviamo in una situazione nella quale i corsi di laurea siano di nuovo ragionevolmente 100-150, ci vorranno anni per poter ridurre anche tramite le norme. Ecco, ma i docenti di questi corsi laurea, mediamente, Paolo Ferri, dove li prendono? Se li sono inventati? Sono professori a tutti gli effetti? C'è stato un momento favoloso in cui io vedevo a Roma che insegnava Maurizio Costanzo, Santoro, di tutti i giornalisti andavano a fare corsi laurea, Soubrette, chiunque era professore. Mi rispieghi al pubblico le categorie della docenza universitaria nella loro eccelsa classificazione? Ma no, le categorie della docenza universitaria ovviamente sono tre, cioè ricercatori, professori associati e professori ordinari, e questi sono 60.000 in tutta Italia. Dopodiché, nel momento di questa esplosione, di questo florilegio rizomatico di lauree, ovviamente per trovare docenti si sono poi fatti entrare in università anche professionisti o persone a vario titolo qualificate, lasciamo perdere. Si pensa che anch'io ho insegnato un anno all'università, ho fatto un corso. No, tu probabilmente hai un'esperienza seria. Ma, in quanto strozzologo, però... sì, ma non è stato molto divertente. In quanto però esperto di radio, evidentemente potresti tranquillamente insegnare, però è chiaro che a fronte di professionisti seri che sono stati coinvolti, spesso sono stati coinvolti gli amici degli amici piuttosto che persone che obiettivamente non avevano titolo. E quindi, però erano pagati, qualche soldino usciva da questa cosa. Sì, pagati poco, almeno nelle università pubbliche, nel senso che un corso al massimo che io abbia sentito viene retribuito 6.000 euro lordi l'anno, quindi diciamo... Sì, ma molti lo facevano soltanto per avere sul biglietto a vista professore. Sai, io sono professore, mi faceva ridere tanti colleghi, sono professore all'università di Canicattì, insegno scienza applicata dell'uso della penna biro sulla carta bianca. In Italia poi sono tutti professori, per cui però in generale a volte invece ci sono gemmati corsi di laurea con i nomi più strani per attirare studenti, e poi i docenti erano sempre quelli, per cui erano quelli incardinati, dei seri professori universitari si sono trovati a volte coinvolti in corsi di laurea piuttosto imbarazzanti. Paolo, ci fermiamo soltanto un istante, devo dare le informazioni della borsa, già sono in ritardo, ci sentiamo dopo, grazie, a più tardi. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Stiamo compiendo un percorso ardito quanto stimolante di tranciare nella vastissima profluvie, e il termine non è usato a caso, delle facoltà di stronzologia che esistono in Italia, quelle potrebbero essere i corsi laurea essenziali. Ho citato la scala di Bristol, tutti mi chiedono cosa sia. Beh, senza entrare in particolari, è lo strumento medico diagnostico che serve appunto attraverso 7 categorie a classificare la stronzologia. Questo è, cercatela su internet, fatemi dire di più, è uno strumento creato da una società scandinava uscito per la prima volta negli anni 90 nel giornale della Società Scandinava di Gastroenterologia, e serve appunto a classificare quello di cui stiamo parlando attraverso 7 categorie, e se volete vi citerò alcune categorie quando verranno citati dei corsi laurea che rientrano nella categoria della stronzologia. Alberto, buongiorno. Buongiorno, due brevissimi flash. Intanto complimenti, lei è sempre molto provocatorio e molto arguto. Innanzitutto credo il suo ospite abbia dato un'immagine reale anche delle illusioni. Beh, è un vero professore, tanti. Abbiamo cercato, esatto, un professore. Certo, non uno stronzologo, sì, esatto, dei tanti. Ecco. Anche perché io, per dire, ho una figlia che è laureata in scienze della comunicazione, ahimè, è una di quelle che forse nell'immaginario collettivo chissà che cosa avrebbero dovuto portare. Diciamo che al settimo grado della scala Bristol, però comunque acquosa, stata... nessun pezzo solido, completamente liquida, è la tipica, esatto, facoltà. Lei è stata assunta. Bauman l'ha classificata come appunto il corso di laurea adatto per la società liquida, al numero 7 della scala di Bristol. La ringrazio di questa delucidazione. Comunque lei è stata assunta come magazziniera, e peraltro sono ben felice, anche se part time, perché almeno lì il magazziniere è un ruolo ben deciso e ben preciso, e quindi forse qualche speranza c'è. Per il resto, una piccola annotazione sul rettore, che veramente sarebbe una cosa molto grave. Però non mi metta nei guai, sì. No, ma adesso lo dico io, perché sa, censurare le idee è una cosa brutta che ci riporta indietro nel tempo. Poi credo che un vero docente, un vero professore dovrebbe essere molto più attento ai richiami, alle sollecitazioni e alle critiche, che non agli... Ah, dice il rettore, si è offeso per quello che ha detto. Sì. Sono d'accordo anch'io, querelare, nel dibattito culturale ci sta anche che qualcuno definisca con la scala di Bristol un corso di laurea che poi ha fatto fino in fondo, ha compiuto, quindi non c'è nulla di strano, anzi sarei onorato del fatto che qualcosa che io produco sia oggetto di discussione e classificazione. Quindi sua figlia, laureata in scienza della comunicazione, cita Debord quando dice portami il carrello che devo spostare questo scatolone, quindi è perfettamente allineata nell'idea che la laurea in stronzologia ha un suo valore culturale, ha un suo valore non applicabile poi a un'attività professionale. Ettore, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Io l'ho chiamata più che altro perché abbiamo un'affinità in termini di formazione, perché anch'io prima ho studiato giurisprudenza e poi mi sono laureato e specializzato in filosofia, che secondo appunto quelle che possono essere l'opinione comune è un po' la madre di tutte le discipline, che tutte le proliferazioni di facoltà di stronzologia. L'impressione che sia è questa qua, no? Che di solito... Beh, adesso non esageriamo, diciamo a un grado 2 della scala di Bristol. A forma... infatti su questa scala qua, io dicevo, c'è la scala di Bristol in Europa, facciamo la scala di Briscola in Italia per le facoltà, diciamo così. Ma lei cosa si è specializzato? Io mi sono specializzato addirittura in una roba che si chiama metafisica contemporanea. Beh, è interessante come disciplina. E in particolare c'è un autore in cui... Sì, ho approfondito, diciamo così, la validità in filosofia del principio di rasoio di Occam, il classico dibattito sugli universali. Beh, è quello che stiamo applicando questa mattina. Assolutamente sì, c'è un'attività di riduzionismo per la quale io tra l'altro sono perfettamente... Infatti l'ho classificata al punto 2, che è un insieme completo a forma di salsiccia ma frantumata da grumi uniti tra loro, che è il numero 2 della scala di Bristol. Assolutamente sì, comunque l'impressione che si ha appunto all'esterno è che per le nostre facoltà, perché filosofia la considero appunto una facoltà estremamente interessante. Sì, ma non può dire che una laurea in filosofia è stronzologia, mi scusi. Però l'impressione che c'è, io che adesso mi rapporto anche con delle persone in una facoltà di economia, l'impressione è quella lì, cioè nel senso che ti guardano un po' come dire... Perché siamo in un mondo deviato che considera la filosofia una disciplina umanistica e non una disciplina scientifica. Sì, Stefano Morigi, buongiorno, resti in linea, Ettore. Stefano Morigi. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Capiti proprio nel momento giusto. Stefano Morigi, ricordo, è uno storico e filosofo della scienza all'Università Bicocca di Milano, autore di School Rocks, La scuola spacca, professione rap di Frankie Energy. Però è un vero filosofo, Stefano Morigi, anche se ha fatto un libro con un grandissimo artista rapper italiano, hip hop italiano, dedicato proprio alla scuola superiore. Ma in questo caso, cosa è da dire al tuo collega specializzato nel rasoio di Occam e che lo considera una stronzologia? Sai, se Occam fosse vivo taglierebbe lui stesso un sacco di corsi e insegnerebbe, soprattutto in Italia, che la filosofia non è quella roba che molto spesso viene insegnata nei licei e anche nelle università, che molte volte giustamente è bollata come una sequela di atti astrusi per usi astratti, ma è una serie di strumenti di cui la gente si deve appropriare per gestire la propria vita, non solo i grandi problemi che riguardano i massimi sistemi, ma anche la vita quotidiana. Ora, finché la filosofia non verrà insegnata in questo modo, come una cassetta degli attrezzi per la tua esistenza e per i tuoi problemi concreti, evidentemente non se ne vedrà il senso e l'utilità. Ma il rischio non riguarda solo la filosofia. Lo diceva bene lo studente neolaureato in informatica giuridica che interveniva prima. Riguarda una serie di corsi, di lauree, una serie di discipline. Il problema sta più nella didattica che nel merito dell'insegnamento proposto agli studenti. Sì, c'è una strategia didattica che non lascia intendere l'utilità pratica delle materie. Sì, però Stefano, la didattica dovrebbe farla dei docenti. Il problema è questo, che non sempre sono docenti quelli che insegnano stronzologia, perché anche scienza della comunicazione avrebbe tutta la dignità di essere uno strumento importante per capire e fendere la società contemporanea. È che quando va chiunque a insegnare quello che fa tutti i giorni, ti spiega come fa lui a fare lo stand up di un servizio al telegiornale, rientra nella, secondo me, nel novero della stronzologia. Certo, poi nella fattispecie di scienza della comunicazione, dove per carità insegnano docenti prestigiosi, io francamente preferirei una comunicazione delle scienze alla scienza della comunicazione. Beh, quello c'è già l'insigne professor Giacobbo, scusami. Lascia perdere, non mi provocare. No, il problema è che la comunicazione delle scienze presupporrebbe che l'insegnante sapesse qualcosa della scienza che vorrebbe comunicare. Il dramma dei molti, non di tutti, per carità, laureati in scienze della comunicazione, è che escono e si propongono al mondo del lavoro come, in teoria, esperti della comunicazione, non si sa che cosa vogliono comunicare o che cosa possano comunicare. È come un tassista senza taxi. Esattamente, in teoria sanno comunicare tutto, ma non hanno l'oggetto che dovrebbero comunicare. Una comunicazione delle scienze presupporrebbe una competenza in un campo e poi l'abilità di veicolarlo ora su un giornale, ora sulla rete, ora su un mezzo come quello che noi stiamo usando. Sentiamo Ettore un attimo. È un problema di impostazione. Sentiamo il tuo collega Ettore, laureato in filosofia nel rasoio, specializzato nel rasoio di Occam, se diciamo la replica del professor Morigi l'ha in parte convinta, che non ha perso il suo tempo. Sono d'accordo su tutta la linea, cioè l'impressione che di solito hanno gli studenti uscendo dal liceo è che filosofia sia storia della filosofia. In realtà ci sono una quantità di discipline specifiche come la logica, la filosofia della scienza, che tra l'altro saluto il professor Morigi che mi interrogò in un istituzionale di filosofia della scienza. Un tuo allievo, abbiamo beccato. Non ci è andata bene. Io dico, sono d'accordo su tutta la linea. Bisognerebbe fu segato da Morigi? No, assolutamente, ebbe anche dei consigli molto utili su una questione Leibniz-Newton. In ogni caso, devo dire che, diciamo così, sono d'accordo sul metodo, cioè è fondamentale riformare il metodo, cioè l'impressione è che, uno studente di filosofia sa un po' di cose un po' disorganiche su tanti autori diversi. In realtà è una metodologia molto forte anche per interpretare appunto la vita di tutti i giorni, anche sul posto di lavoro, banalmente. Cioè, sentiamo un attimo, grazie mille Ettore, sentiamo Vincenzo. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno, sono Vincenzo da Genova. Sono laureato in ingegneria informatica, robotica e automazione. Beh, tutt'altro che stronzologia, direi. Sì, però volevo fare un discorso un po' più in generale, perché secondo me, diciamo, come conoscenze sono tutte, diciamo, know-how da sfruttare sul lavoro, sono tutte lauree in sociologia, perché anche ingegneria informatica, nel mio caso e poi anche di molti miei colleghi, anche non di Genova, di Milano, così la facoltà non fornisce quelle competenze utili per il mondo del lavoro. Infatti, però mi sembra che sia, diciamo, una fetta delle possibilità infinite di laurearsi in informatica, quella della robotica, quanto mai attuale, è il futuro. Sì, però diciamo sì, si hanno moltissime, diciamo, il problema dell'università italiana, credo, che si hanno moltissime conoscenze teoriche, però quando si va a fare un colloquio di lavoro che ti chiedono vengono chieste determinate competenze di programmazione o di varie tool industriali, così siamo completamente impreparati, quindi ci viene assunti solo perché si è fatto un tipo di percorso di studi come ingegnere informatico, ingegnere generale o altri corsi di studi che sono abbastanza difficili. E poi bisogna compensare con delle scelte. Questo è chiaro. Però diciamo la scelta a priori fondamentale non mi sembra una scelta sbagliata. Solo velocemente, Angelo, al volo. Sono in linea? Sì, certo. Senta, no, io sono laureato in chimica, è una cosa molto bella in termodinamica chimica delle alte temperature, in chimica pura, eccetera, eccetera. Però parlando di lavoro e risvolti pratici, poi all'atto pratico non si ha nessun tipo di contatto con la realtà. Poi mi sembra strano, scusi Angelo, la laurea in chimica per quelle mie lacunosissime informazioni che ho è una delle lauree che maggiormente apre al mondo del lavoro. Oggi un laureato in chimica. Da questo punto di vista io non ho avuto nessuna difficoltà nel lavorare. Infatti, detto fra noi, io mi sono anche un po' intromesso. Lei cosa fa in questo momento? Adesso come adesso sono in pensione da pochi mesi, però... In pensione? Si è laureato parecchi anni fa? Io mi sono laureato nel 76. Vabbè, sa parlare di un'altra generazione ormai. Un'altra generazione, però ho contatti con i miei colleghi chimici che effettivamente hanno praticamente nessun contatto con la realtà del lavoro, insomma. Non c'è nulla da fare, Nicoletti. Le ditte tendono a formare presso di sé le loro competenze. Questo però vede, può essere un problema interessante, ma è un altro versante. Sono persone che hanno fatto laurea ad altissima qualificazione e poi nell'impatto col mondo del lavoro e con l'industria hanno dei problemi. Noi facciamo un passo indietro, ritorniamo al tema che avevamo proposto, la laurea in stronzologia. Chi non si laurea in chimica, chi non si laurea in ingegneria, chi non vuol fare il medico, chi non vuol fare l'ingegnere, ma vuol fare il tuttologo senza avere nulla in realtà del tutto di personale da dire, da proporre e da articolare. Melog, la realtà condivisa. Sto scorrendo i messaggi che arrivano su Facebook. Vedo che ci sono sempre state le facoltà caposcuola nella scala della stronzologia, perlomeno nella percezione degli studenti che una volta laureati poi cercano di trovare applicazioni concrete alla loro laurea. Diciamo che fino a tutti gli anni 90 valeva una facoltà in sociologia o sociologia, soprattutto scienze politiche, ecco, prima ancora scienze politiche, diciamo nei favolosi anni 70-80 era la facoltà a scienze politiche, poi è diventata sociologia, poi è diventata finalmente scienza della comunicazione. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Lei quindi è uno stronzologo dei tempi nostri. Ma io sono uno stronzologo, ma contesto la categorizzazione sulla base della facoltà frequentata. No, diciamo nella percezione generale, diciamo, cosa sei laureato? Scienze politiche, tutti ridevano. No, allora io sono laureato in scienze della comunicazione e quindi uno spiegato per definizione, secondo appunto l'accezione attuale. Posso testimoniare invece un'esperienza assolutamente opposta rispetto a quella che mi dispiace appunto registrare nell'immaginario collettivo. Io ho avuto fortunatamente l'opportunità di studiare con docenti eccezionali a Salerno, essendomi laureato nel 98. No, ma anche qui a Roma c'è un'ottima facoltà, insegna un bravissimo conduttore del TG1, Giorgino, a scienza della comunicazione, quindi le occasioni ci sono in qualunque parte d'Italia di fare degli ottimi corsi di studio in scienza della comunicazione. Comunque io quello che volevo sottolineare è che ho conosciuto in 15 anni di lavoro tantissimi ingegneri super ottusi e tantissimi invece laureati in filosofia super bravi. Vuol dire molto poco quello che si è studiato, vuol dire quello che si è capace di fare nella vita di tutti i giorni per fare la differenza. Questo è chiaro, ma il senso di questa trasmissione, poi la faccio terminare, concludere, stia tranquillo, non è che voglio criminalizzare in realtà il corso di studi, è che ultimamente si è illuso un numero esagerato di persone che fare questi studi che alimentano la propria creatività, il proprio desiderio di conoscenza, colmano le lacune che ognuno vuole colmare in se stesso, quindi non è detto che sia tempo buttato via studiare scienza della comunicazione, è che improvvisamente c'è stata l'esplosione in cui tutti sono stati professori, tutti sono stati chiamati a fare docenze e tutte queste docenze hanno avuto il titolo a dignità di lauree che in realtà richiedevano sudore, studio, applicazione e conoscenze concrete. Un ingegnere, per quanto scellerato, una volta laureato risponde dei calcoli che fa per costruire un edificio, per restaurare un edificio, ne risponde lui. La stessa cosa è un medico. Guardi, sì. Nicoletti, allora, al di là del medico che oggettivamente ha un lavoro specifico e veramente... Sì, ma il mondo è pieno di medici cialtroni, di ingegneri cialtroni, ma ahimè quando sbagliano ci se ne accorge, ecco. Sì, ma una cosa importante da ricordare è che oggi i calcoli li fanno i computer, le persone competono con altre persone che fanno corsi... Sì, ma li firma il responsabile, guardi, li firma il responsabile del progetto. Ma lei quanti ingegneri conosce che fanno gli ingegneri? Io conosco tantissimi ingegneri che fanno lavori completamente diversi dal fare l'ingegnere. L'ingegnere, diciamo, classicamente inteso come quello chinato sul tavolo a fare i calcoli è in via di estinzione, guardi Nicoletti. Oggi è verissimo. Siamo un mondo globalizzato in cui competiamo con persone che arrivano a fare il proprio mestiere, magari 10 anni più giovani perché hanno avuto l'opportunità di studiare in sistemi completamente diversi. Ma non lo metto in dubbio questo, è che in realtà esistono troppi corsi laurea in cui le persone impegnano una parte cospicua del loro tempo per studiare elementi di cultura generale utili, sì, ma che in realtà non hanno il senso e dignità di ammettere una struttura così complessa e anche così costosa quanto sia una facoltà universitaria. Stefano Moriggi, ricordo Stefano Moriggi, storico e filosofo della scienza all'Università Bicocca di Milano, su quello che ha sollevato quest'ultimo ascoltatore della vanità generale di tutte le lauree, se mai applicate e mal elaborate da chi le prende, da chi consegue il corso. Questo è ovvio che poi capita a molti di non fare il lavoro per cui si è studiato, ma per me il problema è un altro. Nelle tragedie della storia della scuola italiana ce n'è una che ha prodotto, in qualche senso ha contribuito a produrre inutili corsi di laurea: la sparizione di fatto, la svalutazione delle cosiddette scuole professionali, che erano una risorsa altissima, altamente professionalizzante, che forniva in pochi anni persone capaci di agire e interagire col mondo in maniera aggiornata, critica e consapevole, sono state trasformate in parcheggi per chi non ha voglia o attitudini allo studio, e dunque per riabilitare professioni che un tempo lì si formavano, si sono creati dei corsi di laurea quando non c'è nessun bisogno di laurearsi per fare tutta una serie di professioni che una volta appunto erano prodotte da questo tipo di insegnamento. Ma noi diciamo che la nostra società è stata attraversata da una sorta di snobismo, esatto, intergenerazionale, perché a un certo punto il figlio di un onestissimo meccanico idraulico falegname ha detto: no, io voglio studiare scienza della comunicazione per affrancarmi, quando invece poteva specializzarsi in quella che era un'attività che avrebbe impegnato proficuamente e soddisfatto anche poi la sua esigenza di trovare collocazione nel mondo del lavoro. Esattamente, probabilmente bisognerebbe decostruire il mito del cosiddetto dottore, magari cominciando a ricordare che dottore tecnicamente è chi ha un dottorato di ricerca e chi non è, non semplicemente chi è laureato, e rivalutare le professioni e le pratiche, così come in molti paesi all'estero funziona, forse anche dal punto di vista del trovare lavoro si otterrebbero risultati molto migliori. L'università è un posto dove certo si creano professionisti, ma si creano professionisti che dovrebbero essere formati alla ricerca. E questo ovviamente è sempre in connessione col mondo che sta fuori dall'università, ma per chi vuole lavorare esistevano questi bellissimi istituti e presidi culturali che erano le scuole professionali. Io comincerei da lì. Io ieri ho citato per caso un ascoltatore, dice che la figlia era disoccupata. Mi viene un esempio: come mai la scienza dell'educazione, che è una materia, che una facoltà che potrebbe sfornare un'infinità di operatori concreti, reali nel campo sociale, utilissimi, lo sa benissimo che ha un figlio in età minore, che ha un figlio handicappato, la mancanza di specializzazione in tante scuole specializzate, pochissimi hanno la voglia e il desiderio di specializzarsi in scienza dell'educazione, ma in scienza della comunicazione ce ne sono tantissimi. Qual è secondo te la spiegazione? Sai, viviamo nella cosiddetta società dell'informazione, no? Di internet, e probabilmente tutti ambiscono ad essere esperti e competenti nella comunicazione ricreata da questi moderni strumenti della tecnologia. Il problema è che sarebbe forse più importante prima conoscere questi strumenti della tecnologia, la conoscenza scientifica che li sottende, e poi magari provare a comunicare con questi. Se si vuole saltare il fosso senza prendendo una scorciatoia e non facendo il debito percorso di conoscenze che dovrebbe portare un professionista consapevole al punto di poter essere tale, di proporsi sul mercato in quanto tale, e poi si creano gli scompensi di cui abbiamo notizie. Ecco, abbiamo finito. Stefano Morigi, grazie della collaborazione e d'aiuto, grazie a tutti quelli che hanno telefonato, e non ho nulla da dire a tutti quelli che chiamano e dicono: mio figlio fa scienza della comunicazione, che devo fare? Sarà un perfetto stronzologo, non so che dirvi. A domani.